Con Antonio Manzini, lo scrittore Antonio Manzini, per parlare del Festival della Letteratura a Mantova, in cui sarà presente dal 6 all'8 settembre con tre diversi incontri. Antonio, benvenuto, ben trovato. Bentrovati voi. Intanto presentiamo queste tre giornate brevemente. Sì, si tratta di tre interventi che faccio lì al Festival della Letteratura, che è sempre un piacere andarci, e sono sostanzialmente un incontro con Giampaolo Sini, in cui cerchiamo di capire qual è il valore sociale, se il valore sociale ne ha, il racconto giallo. Un altro incontro lo farò con dei ragazzi, che è quello che mi emoziona di più, perché si sa, insomma, sono quelli che hanno le domande più imbarazzanti e a volte ti mettono in profonda crisi. E poi c'è invece un racconto che leggo, di un racconto inedito che mi piacerebbe facesse parte di un nuovo libro che da tempo che sto preparando, ma è un piccolo libricino in realtà, su delle idiosincrasie di questo mondo dell'editoria che è veramente buffo. E quindi ho scritto alcune storie che riguardano appunto il mondo dei libri, dell'editoria, Rai, eccetera, eccetera. E così uno di questi racconti mi piacerebbe leggerlo anche per tastare un po', per vedere se funziona, se la gente risponde oppure vomita. Che ne pensi di questi festival e fiere, soprattutto come momento di incontro tra lettori ed autori? Ti dirò la verità, Sì. ce ne sono centinaia in Italia, una cosa mostruosa. Ce ne stanno continuamente, fiere, festival, eccetera. Diciamo che il Festival della Letteratura di Mantova forse probabilmente quello uno dei più importanti, se non il più importante, ed è un momento di incontro con i lettori abbastanza curioso, perché se tutti in questa piccola cittadina per alcuni giorni, quindi non è che puoi scappare dopo che hai fatto la presentazione, che solitamente succede così, si sta davanti a un pubblico di persone, si dicono le solite cose e poi si scappa. No, qui Sì. il lettore sta lì insieme a te, rimane nella stessa città insieme a te, per cui insomma ti ritrova. E quindi è bello anche parlarci, sapere qualcosa. Sono io che vorrei sapere da loro delle cose, ma perché io ripeto un po' sempre le stesse. E ci sono dei festival che servono proprio a questo, non sono tantissimi in Italia, sicuramente non è quello di Mantova. Quindi servono tantissimo, ma in realtà è una cosa, lo dico egoisticamente, cioè serve allo scrittore per capire e dare un viso finalmente ai lettori dei suoi libri, e soprattutto che cosa si aspettano, cosa vedono nei suoi libri, se scoprono cose che magari neanche intendevi scrivere, invece loro l'hanno lette. Antonio, ecco, prima facevi riferimento all'editoria e qual è lo stato delle cose al momento, secondo il tuo punto di vista? Guarda, se dal punto di vista troppo parcellizzato, non sono in grado di dirlo in realtà. L'unica cosa che posso dire è che non aumentano i lettori, anzi tendono a diminuire. E questo, al di là della crisi editoriale, è proprio una crisi del paese. Un paese che ha dimenticato il teatro, perché l'ha dimenticato, si sta affievolendo il numero di lettori. Probabilmente perché i lettori sono sempre le persone più anziane, che ahimè la natura se le porta via, non ci sono quindi dei grandi ricarichi o rincalzi. È un paese un po' pericoloso e mi fa paura quello, più che l'editoria in sé, per quanto riguarda un discorso egoistico. Diciamo che è viva, nel senso che pubblicazioni ce ne sono una quantità mostruosa, lo vedi anche tu, è una spaventosa quantità di titoli che vengono pubblicati ogni mese. Sulla bontà di questi titoli non posso parlare, perché non li leggo tutti. Non credo non basti una vita per leggere quello che esce in un anno in Italia, no? Sì. Sì. Però mi sembra che ci siano tantissimi scrittori bravissimi in Italia, che hanno da raccontare, che hanno da dire le cose. Mi riferisco a Niccolò Ammaniti, Raul Montanari, Massimiliano Governi, ce ne sono tanti di scrittori bravissimi. Quindi l'editoria non è morta in realtà. È in profonda crisi, ma perché è in crisi economica del paese, ed è quella la cosa più triste, che appena va in crisi un paese, le prime cose che si tagliano solitamente sono la cultura, lo spettacolo, la cultura, cioè quello che secondo loro non serve mai. Ma sono 20 anni che tagliano, per cui Sì, non sì. è successo niente di nuovo sotto il sole. Sì. Ecco, questo disamore del pubblico verso i libri, e secondo te quali sono le ragioni? E in questo ti chiedo anche, dal tuo punto di vista, il rapporto tra il libro e il mondo digitale. Guarda, io non lo so quali sono le cause, o meglio, non ce n'è una sola. Credo che sia profondo il discorso che si fa spesso dell'educazione, che riguarda la famiglia, la scuola, l'università. Tutte queste hanno un carico di colpe, non ci sono dubbi. Non si insegna spesso e volentieri a leggere, la letteratura viene sempre un po' percepita come una fossa di noia invece che un meraviglioso gioco, perché poi alla fine quello è. Capire il mondo, spesso e volentieri i libri vengono considerati dalle persone come oggetti inutili, non si pensa più al senso critico del ragazzo e poi dello studente in generale, cioè scrivere e leggere significa anche imparare a criticare, a dubitare, a vedere cosa succede intorno a te, ma tutto questo forse non è molto importante, soprattutto in tempi come questi. Associarsi a un'idea principale è facile e andare contro è difficile, però per andare contro devi avere anche degli argomenti, questi solitamente si danno nei libri. Ma tu la sai, insomma, non a caso le dittature la prima cosa che facevano era bruciare i libri. C'è un motivo, no? Sì. C'è un motivo in tutto questo. E anche il teatro purtroppo va di pari passo, perché dimenticarsi il teatro vuol dire dimenticare l'espressione di un paese. E questo l'Italia lo sta facendo. Sì. Oh, in questa situazione ci sono due note, secondo me, che rappresentano qualcosa di positivo. Da un lato l'editoria per l'infanzia, che comunque continua ad avere una sua fetta di pubblico, e l'altra è l'interesse un po' trasversale rispetto alle età e condizioni economiche, l'interesse verso la giallistica di marca italiana. Questo è un fenomeno degli ultimi anni, che ci ha sorpreso un po' tutti, devo dire, devo essere sincero. Ma probabilmente anche qui le motivazioni possono essere tante e diverse, e io non le conosco tutte. Io mi sono fatto una mia idea, quindi vale quello che vale. Credo che il racconto, giallo entri immediatamente a parlare della società, perché entra nel tessuto collettivo sociale, no? Lì che accadono omicidi e schifezze del genere. E credo anche che i miei colleghi abbiano un modo piuttosto diretto di porre l'argomento. Non sto dicendo che sia una letteratura più semplice, assolutamente no. Sto dicendo che però parla in maniera più diretta al lettore. Forse anche prendendosi un pochino meno sul serio di quanto faccia altra letteratura, peraltro spesso e volentieri incomprensibile e molto lontana dal lettore, ma molto vicina all'ombelico dello scrittore. Credo che questo sia uno dei motivi per cui le persone si sono avvicinate a questo genere. Prima non era così, è sempre stato considerato un sottogenere letterario in Italia, no? Sì. Ci è voluto, che so, Gadda per dare una smossa Sì. alla critica. Sì. Io penso che sia questo uno dei motivi, perché parliamo del paese sostanzialmente, dei vizi e delle virtù di questo paese. Sì. E quindi probabilmente ci sarà anche un meccanismo di coinvolgimento, di riconoscimento probabilmente, non lo so. Queste sono tutte cose che mi sono posto, mi sono domande che mi sono posto, ma alle quali non ho mai trovato una risposta. Poi forse perché sono belli, diciamo, trovare le cause sempre a monte, poi magari ce ne saranno quelle molto più semplici, cioè che sono dei libri. Antonio, un'ultima curiosità rispetto al tuo percorso artistico. Ecco, che direzione pensi di stare prendendo anche in relazione ai progetti sui quali sei impegnato o alle idee che ti piacerebbe realizzare? A me piacerebbe tanto continuare a raccontare le storie. Dico piacerebbe tanto perché al momento le storie di Rocco Schiavone sono quelle che mi prendono tantissimo tempo, ma io in realtà vorrei raccontare anche altro. E credo che quello sarà il mio prossimo impegno, cioè stare sempre lì a raccontare le storie, come un nonno un po' rincoglionito vicino al fuoco, cioè più o meno quello voglio fare io. Che racconta le sue storie, poi c'è chi l'ascolta, c'è chi invece si annoia, ma insomma voglio fare quello. Senti, in rete c'è uno spazio dove ti si può leggere, punto di riferimento per, insomma, quello che fai? Ma guarda, io in realtà non sono molto manettone, come si dice. Ok. Nel senso che tempo fa mi dici su Facebook, ma non scrivo quasi niente, o poco niente, sono un po' pigro da quel punto di vista. C'è una persona che ogni tanto mi dà una mano e si ricorda lei le cose che devo fare, io non le scrivo mai. Per cui sono un po' indietro da questo punto di vista. Bene, allora ricordiamo i prossimi tre appuntamenti con Antonio Manzini al Festival della Letteratura a Mantova il 6, 7 e 8 Lo... settembre. Antonio, un ringraziamento, un abbraccio, a risentirci presto. A risentirci presto, grazie, un abbraccio a tutti, grazie tante.